Era squarciato il pomeriggio, l'aria limpida. Le persone non le vedeva bene. Facce indefinite, mani, capelli dalle macchine. A Piazza Tiburtina, con le spalle alla stazione, le mura costeggiano la strada, lunghe, gialle. Dentro la stessa città non era più tornata a San Lorenzo. Quando era inverno si vedeva la montagna con la neve dritta in mezzo allo sguardo. Victor Cavallo al bar parlava di Totti. Sono ricordi, fantasmi. Non mi importa di crescere. Non ho voglia di sapere che le cose diventeranno diverse. La melanconia ce l'avranno anche quelli dietro, quelli che non hanno fatto in tempo ad attaccarsi. Maria sul motorino, sofferente di sbalzi d'umore, cali chimici, su e giù pensieri da sistemare come vestiti con il cambio di stagione, a San Lorenzo aveva vissuto dall'85 al 97. Deve traslocare da Trastevere, una merda quel quartiere, dicono tutti. La gente è matta, la gente taglia le dita, le orecchie alle statue. Cerca casa in affitto. A San Lorenzo era passata solo un paio di volte per caso, qualche festa dai pittori, al pastificio, dalla terrazza di Nunzio, il verano a Capodanno. Sembrava una carta strappata disegnata da un bambino. Le luci dei morti perse tra la scia, lo strato dell'eterna Roma su tutto. Vedere dall'alto disintossica. Ah bella, c'ho 80 anni, ho voglia a cambiare, non t'ha rimpiange a San Lorenzo. Sporcizie, cache, tatuati, bottonati, quelli che i cosi ficcati qua, non t'ha rimpiange, è un casino, è finita, t'ho detto tutto. 20 anni prima in via degli Equi uno studente massacrato per terra in controluce dalla finestra, nessuno lo aiutava. Le cose cambiano, si perdono, si smembrano per la strada, ce le fanno studiare a scuola, sui libri, mentre le viviamo sfuggono. Panino.com, Mamarò pizza e birra non stop, sciottineria, sciottini, sciottini all'Assenzio, in provetta, in bocca, kebab house, maz, come manna dal cielo, panza mia fatte capanna, arcantone, arcocorico, diablo, tirabuscion, porca vacca griglieria, tribù, fiaschetta, dalù, Don Chisciotte, ce stavo prima io, volono fare un'altra Trastevere e non ce sono riusciti. La flebbo nel braccio, nell'inconscio, cammina piano, rallenta. In questo bar, il più zozzo del mondo, a Piazza dei Campani, vendevano il pane caldo. I matti del centro mentale in via dei Retici mangiavano le noccioline. Il ricordo è un attimo, un flash. Adesso lì dentro è arredato tipo horror, manichini appesi ai muri. Anche la farmacia, sparita, gli spaccavano il vetro per il metadone. Mi state livellando l'occhio. Non rimango attaccata, me ne fotto di voi. Nella mia camera guardo quello che voglio quando dormo. La corrente mi trascina in Piazza dei Caduti, 16 luglio 43. Pure che ci metti le foglie, le giostre, quattro sassi e due panchine, sarai sempre alcolizzato dentro i giardinetti, sbiadito, un fazzoletto usato nelle tasche. Le gambe aperte di una vecchia, si vede fino a dentro, sotto, le mutande, i bozzi delle cosce. Muoviti, attraversa. Il giornalaio mo apre alle 8, con mio padre alle 5:15. Gli operai andavano al lavoro con la pagnottella sotto al braccio, le intruppavo le signore per la strada, bambini, non c'è più nessuno, questi si svegliano a luna. Chi? I studenti. Non vi state ad angustiare, tra altri 10 anni vi fanno la tangenziale, l'aeroporto, un'altra stazione, un giardinetto, l'estensione del cimitero, dipende, vediamo. Ma dove vanno? Fino alle 5 della mattina se stanno a ammazzare sotto le finestre, se truccano, pisciano dietro i secchioni, tra uomini si abbaciano. Oh, si intesta bene, te ne vai, cambi casa. C'ho 80 anni, devo cambiare casa. E beh, si intesta bene. Un macello, un macello. Anch'io ho lasciato una bottiglia di birra sulla scalinata di Piazza Trilussa. Può succedere, signora, che a 20 anni vomiti, urli, spacchi i portoni, sventri le panchine e me fai schifo e sei una merda. Mi dispiace, signora. Sono qua, in mezzo come lei. Non servo a nessuno, non posso fare niente. Mi gira la testa. Devo andare. Aggrappata al citofono me le guardo come dietro il vetro di un acquario, le mie scale per 11 anni in via dei Isabelli. Che gliene importa a quelli del caffè eno letterario al posto del meccanico? Neanche immaginano quello che abbiamo fatto. Punte e nacchere, la ruota, gli uccelli e le conchiglie, le pupille. 72 anni calzolaio, venuto nel 51 a Roma da Mammola in Calabria. Un trapiantato anche lui, senza una lira. Pagava un lettino a Torpignattara 5.000 lire al mese, il trambene costava 15. Trogloditi del sud in via dei Piceni, non si batte un chiodo a San Lorenzo. Che tipo di scarpe ripara? Qualsiasi tipo, da 50 anni. Come ha visto l'evoluzione delle scarpe? E come l'ho visto? Ho visto che va a peggiorare. Gli studenti non c'hanno una lira, mi portano le scarpe dei cinesi, quelle usa e getta, ma buttala che riparo, sono distrutte. E le famiglie? Le famiglie sono vecchie, le scarpe sono vecchie, non c'è niente da fa, chiudo, cambio zona, non c'è niente da fa. Non ci scoraggiamo, vi ho visti camminare, l'ho sentito il sapore, le ali non battono, c'è la luce intorno. Era il meglio quartiere d'Italia, San Lorenzo ormai è morto come i San Lorenzini, è in Frigantogo a cipolla, tutti misti, qua tra 20 anni siamo tutti negri. A noi ci piaceva la discendenza nostra, questa de Roma che eravamo sani. Stella mia, dei romani si contano su due dita. Noi lo sapemo che era San Lorenzo, mo' il centro storico. L'intonaco cade dal muro. Vincenzo premia nei piatti, forchette, tutto apparecchiato. Bisogna mangiare, comunicare, stare sempre da qualche parte. La solitudine è brutta, facciamo pena di spalle. I viaggi organizzati in gruppi di 3 piani, sui pullman. Era inevitabile questo cambiamento. Se vi piace così, prima c'era gente dei paese. Ci avevano i carettini che la frutta, la vendevano, ci avevano casa qua. Sono stati i figli ingordi che hanno affittato ai studenti. I prendono per collo qua sotto, sono tutti ingordi. Granita di caffè al bar Marani, facce etrusche di ragazzi fuori sede. Femmine e maschi gesticolano disinvolti nei movimenti. Negli anni 40 non si usciva. La prima figlia ho fatto a 16 anni, ho scopato subito. C'ho 75 anni, sono nata a San Lorenzo, all'ospedale, cazzo, mica a casa. A Piazza Vittorio, al mercato, banco d'erba e frutta per 50 anni. I figli stavano con me dentro i bacchiari, e ci essendo portavano a bacchi. Io lavoravo e loro dormivano là dentro, sotto al banco. Si avvicinano, ci vengono incontro, ci sbattono addosso tutto, non si fermano le bombe. La signora non lo sa che è all'età che avrebbe Useppe della storia della Morante. C'avevo 6 anni e stavo a via Campani. I miei fratelli m'otturavano orecchie per farmi sentire bombe. Mia madre lavorava al Ministero di Interni, faceva le pulizie, non arrivava a venire, non arrivava, alle 11:30, non arrivava. Oddio, io a piagne, mia madre, mo' ammazzano col bombardamento. Poi tutti i palazzi sono crollati a Piazza Campani, per scappare a macello. I miei fratelli hanno rubato tutta roba dentro le botteghe per scappare. A Marsala, l'ova, questo, quest'altro e siamo scappati alla storta. Poi sono ritornata qua. I bambini si divertono lo stesso, lo senti meno il dolore, sei cieco, te lo dimentichi a 6 anni. A 12 no, 3 giorni sotto le macerie, con la gamba sdrenata, quando sorti di fuori, dissanguato, all'ospedale, la bocca in fuori, sei un pupazzo sbrindellato. Guardo i suoi occhi schizzati di rosso. Un giorno non ci saremo più, saremo niente, si spengono le cose. Ma dopo che te sei fatto da San Lorenzo a Via Flaminia a portare i biscotti che faceva qui il biscottificio Baruffi, non con il 3, l'8, il 116, il cavallo, che cavallo, a piedi, con caretta in quintale sopra de merce, via Castro Pretroio, Corso Italia, tutta ascesa da solo. C'avevo 12 anni, lavoravo. Avere fede, pregare, pagare Gescal, pagare Ina casa, pagare tutto. 440 euro di pensione puoi farcela se ne paghi 220 d'affitto. La casa te la sei venduta, eravate 16 figli, stai con tua moglie ai margini del quartiere dove sei nato, non lo meriti? Succede. Cala il 4 a bastoni. Scopa. Non ti parlo, papà. Non ti saluto, mamma. Vi cerco, papà e mamma. Non voglio figli, non ce la faccio. Il ricordo è fresco come la vernice. Il rifiuto, l'amore mischiato. Sto bene così. Chi aveva 4, chi 8, chi 18 figli? In via dei Sabelli 18 figli, dove dormivano? Ci avevano il letto a cestello, come al carcere di Regina Celi. A quei tempi non c'era la televisione. E le carenze d'affetto, l'ascolto e la scuola. Io ci sono ido fino alla 3ª elementare. Però la 5ª elementare nostra era come adesso un ginnasio. Perché facevi proprio a scuola. All'asilo ci andavi 3-4 anni. Sembra tutto pulito fuori la scuola e a sera Arafatta in via dei Sabelli di pomeriggio. Quella solita aria delle scuole vuote. È un riflesso, ti senti adulto che ne sei uscito. Non ti appartiene più. Un insieme di distacco e ossequio. I finestroni in avanti con il peso dentro dei corpi che scalpitano, schioppano. Lei dalla 4ª è andata a finire in prima. All'Aurelio Sacchi, la maestra c'aveva la rogna sulle mani, mi voleva dar per forza la mano. Te lo giuro su mio marito, io ho detto no, non te la do la mano, c'hai la rogna. E mi ha dato 2 pizze. È venuta mia madre, stavamo usci fuori dalla scuola, l'ha pissata de botte. E basta, io dalla 3ª sono andata a finire in prima. Ah, prima elementare, prima non c'era nei medie, quali medie? Non c'era manco da magnà e medie. Alphabet Street di Prince, il periodo che stavo a San Lorenzo, quando le gambe partono. che proprio dei libri non ti importa, che proprio ti senti male a metterci la faccia. Leggi storto, mangi le liquirizie, rimandi, non ce la fai. Ho fatto 3 anni di professionale, poi me ne sono nato, 17 anni, maschio. Il magazziniere, no, a scuola non era per me. Sono stato bocciato, me sono ritirato. No, non ce vado più, non gliela facevo. Me sono presa la terza media così, basta che me buttavano fuori. Lavoro al bar, no, non mi piaceva studiare. No, non so buona a leggere, leggo però, leggo male, capito? Leggo svogliato. No, mai, non gliel'ho fatta. A chi va de legge? A scrive, non scrivo più, c'ho il cellulare per scrivere, mando i messaggi. I poeti sono pallosi. Il più palloso? Dante. Che cosa pensi di fare adesso? E boh, adesso sto a lavorare, sto al bar con mio padre, gli do una mano. Tuo padre che dice? Mio padre dice studia, che è meglio, però... Eppure mia madre, però alla fine se non voglio io stavo a pensare di fare un tesserino regionale dei computer. Però ho un'idea, avesse il computer. Lui non le fa le passeggiate dentro San Lorenzo, rimane in via Tiburtina. Non c'è una cosa che gli va bene, non gli piace niente. Andava di moda negli anni 80 a bucarsi, che alcuni che conoscevo con lights non li ho più visti. Pure i sassi vendano la droga. Li dovrebbero carcerare pure i sassi. I sassi devono carcerà, se bucano cagano qui per terra. La polizia vedi solo la domenica mattina quando la gente dorme, stop, t'ho detto tutto. Se ammazzano e cortellate. All'alba i piccioni come sorci mangiano tutto, beccano le orme sbiadite, gli avanzi. Se non dormi te ne accorgi, ci vuole un attimo ad andarsene. Quello che hai seminato qualcuno lo mangerà. L'ama gli lava i denti a San Lorenzo, come in un teatro, per la strada, la scena si svuota e riempie. La mattina vengo qua, fino alla mezza. Vado a casa, magno, bevo, mi metto sul letto, poi riscendo, vado in gelateria. Ecco la vita mia, sono pensionata. Solitudine? E quando mai? Non ci penso. Non sento nulla, sono allegra, scanzonata, vado al bar, la sento la gente parlare, non perdo tempo. Io sono efficiente come una comparsa. Su di me puoi contare, lo sai, vero amica beffarda? Se c'è un sasso qui a Roma, puoi star certa che qualcosa di te si ricorda. Fuori a psicologia, in via dei Marzi, si fanno per la strada. 3 minuti di botta calda fino in bocca, davanti alle persone. Case crepate dal dopoguerra, con il buio non passo mai davanti al buco a ridosso del barbone. Fessure di miseria, fino a Trastevere. Un cinese morto a braccia aperte fuori la OBS, cadaveri stesi, narcotizzati, MS in bocca. Sulle panchine, 2, 3... Una marea all'alba verso testaccio, scarafaggi in sovraimpressione. A 20 anni ti svegli, non rimani spappolato con il fegato sul cuscino. Quello che vuoi trovi dagli arabi, cinesi, rumeni, a Piazza dell'Immacolata è diventata loro. Vuoi se fiati, tirano una bottigliata in faccia, si tagliano la gola, fai pippa che ti piglia cinghiate sui denti. Camorra, locali, birre, scala tu che scalo anch'io. L'alone nei capelli a ridosso della stazione se lo tiene San Lorenzo. Pure con tutte le licenze de birre, solo birre, chi gliel'ha date? Gli hanno dato al cervello. Anzi, gliel'hanno fatto sartà. E macchine, 2, 3, questi de San Lorenzo hanno menato a sti marocchini. Non m'affaccio, te tirano le bottigliate. Mi figlio dice, ma non apri la finestra perché sennò me ce magna ricchi. A ricchi vuol dire che megna una persona e poi la vai a pagare. Non riesco a parlarne, signora. Non mi interessa, non me ne frega niente, non mi va. Sono venuta per cercare casa in affitto. Non è perché ho pagato un crodino e 2 tacos 7 euro davanti a una piazza d'assassini. Non è per l'arroganza, l'ottusità nelle facce del 600 indaffarate nel commercio, fuori locali, l'espressione avida, i vestiti profumati di ammorbidente della mamma. C'è qualcosa che mi blocca nel comunicare. Forse il gruppo, la massa, tutti insieme, un solo grido, mi viene l'ansia. Ho fame, molta fame. Nel 1985 il cinghiale sanguinava a testa sotto all'ingresso da Aldo a Piazza degli Ausoni. Ci andava Pasolini a mangiare negli anni 70. Non l'ho mai visto, io stavo al paese, bambina. Roma, come tutti fuori sede che non ce la fanno ad amare tutta quella luce al tramonto, se la strappano di dosso. Al centro della capitale corri, salti, in via del corso con la moto da energie. Impazzito, chi è che non l'ha provato? Cazzo, la moglie di Anna, la moglie di Aldo è morta. Non l'ho più vista dal 97. Dice che non capiva più niente. È stato meglio così, che non era più lei, non cucinava più, non la riconoscevi. Meglio non vedere, perdere contatti, disperdersi, non andare mai a trovare nessuno, così non soffri quando saranno scomparsi. Ma le cose ti riacchiappano sempre. Piove, La melma si scioglie sui marciapiedi. So durati 10 anni e questi appena fatti so già tutti rotti. Nel giro dei 2 anni se so tutti spaccati. L'hanno fatti per finta. Sta sorta di lavagna nera che hanno posto per terra davanti la chiesa, che quando piove so più rischi di cascà. Ditte in appalto, terapia di gruppo, come a Trastevere. L'estinzione la sto vedendo, non mi fa impressione. Nell'inconscio quasi ci provo gusto. Forse ho paura di annegare. Mi metto nel mucchio. Mi voglio salvare. È il secondo cremino. Non mi ricordo dove ho messo il motorino, le chiavi, il casco. Lei c'è mai stato al giapponese? A San Lorenzo ce ne stanno 2 o 3. Chi ne so chi ci va? I zozzoni come loro che mangiano certa roba che mi viene da vomità. La cucina romana è romana, italiana. Ma qui te fanno mangiare zanzare. E formiche cucinano questi dell'India. Tutte cipolle, si sente la puzza a 2 chilometri lontano. Invece quando cucinava una famiglia di San Lorenzo, da dove è sto profumo? Pagliata, pagliata alla brace, calamari alla brace, non c'erano ristoranti, solo osterie. Quante? E che ne so, figlia mia? Io me ne ricordo una qua, che portavano la cena giù, cenavano all'osteria, in goccetta, andavano a casa. Era come in paese. Sì, sì, ci portavamo i fagotti. Portavamo da mangiare come portiamo adesso al mare. Pasta e fagioli fatta in casa con quadrucci tondi, abbacchia alla cacciatora, il pollo alla cacciatora. Se usa ancora come fagottari a noi. Perché pià la cabina, là non se può. La cabina costa 3.000 euro. E il casotto, lo stabilimento al mare. Poi si entri 3 euro per entrata, ha capito? Ho capito, piccola signora che fa i conti. È giusto non rinunciare ai propri bisogni. I piedi nell'acqua inquinata, grattarsi tutta la notte, farsi venire la scabbia, la rogna. Non riesco ad andarmene, anche se è cambiato tutto. Questa luce mi risucchia. Lo stesso smarrimento inconscio che mi porto di camminare come se mi potessi anche pisciare sotto. Non avere sesso, non avere cose da dire. Passeggiare, regredire, non tornare. Il risveglio è un incrocio. In quel momento d'attesa assoluto della prima apertura dell'occhio, in quel vuoto incompleto, mi avverto appesa ad un niente, ad una goccia di pioggia alla finestra, alla pancia come pure alla gamba, che è così sgancia dal letto, con le mani, la testa e pure il cervello, percezione sicura del movimento che al varco mi attende, fuori la porta di camera, camera da letto, camera avvertita e come i sogni che ancora infiltrati ricordo, sento il loro sapore. E mentre batto i passi a tempo dell'animo mio in piedi al giorno emerso, avvito la prima macchinetta di caffè e nel bagno davanti lo specchio so già che potrò cambiare. Ma chiamando la sera ritornerò nel letto e sdraiata verso destra guarderò la finestra e sdraiata verso sinistra vedrò la mia ombra riflessa.